Fino a 4-5 anni fa nessuno lo pensava. L'Eurovelo 7 era disegnato, e attraversava tutta Europa da Capo Nord fino a Malta, l'Italia passava dal Brennero fino a Palermo e pensa che non passava neanche da Bologna, passava da Modena. Quando noi ci rendemmo conto di questa cosa qui, cercavamo di capire che cosa stava per accadere e quanto fosse importante in realtà il cicloturismo sotto più profili, sotto il profilo sociale, poi anche economico, turistico, ma in primo luogo sociale. E allora abbiamo lavorato affinché in realtà ci fosse qualcosa di concreto. Siamo arrivati abbastanza in fretta e a quel punto ECF, che è l'associazione che la Commissione europea ha individuato come quella responsabile dei percorsi Eurovelo, ha riconosciuto il passaggio da Bologna. E questo è accaduto in poco tempo. Quando nel 2016 abbiamo iniziato questo percorso, pensavamo che sarebbe durato veramente molto di più. Siamo all'inizio di un percorso che nell'arco di, immagino, qualche anno ci porterà a compiere tutta l'intera tratta di 300 e passa chilometri, adesso a memoria non li so. 390 chilometri. Ecco, 390 chilometri che da Verona, passando per Bologna, arrivano fino a Firenze. Questo è un passaggio importante per il nostro territorio, ovvero Mirandola Osteria Sì. Nuova, quindi sala bolognese, ma con un passaggio, diciamo, provvisorio per strade poco trafficate che porta fino a Bologna. Quindi se uno se la vuole fare nei due sensi, da Bologna direttamente a Mirandola e ritorno prendendo un treno, insomma è anche un'opzione per il ritorno, tornare indietro con treno bici. Cosa è rimasto del tracciato ferroviario originale? Perché anche questa è una cosa molto affascinante, no? Sono due mobilità sostenibili che si intrecciano in storie diverse. Sì, infatti è accaduto questo, che prima di tutto fino a Verona, da Brennero a Verona, ci hanno lavorato i colleghi dell'Alto Adige e del Trentino e lì la ciclovia esiste. Da Verona a Firenze ci stiamo lavorando noi, abbiamo iniziato 2 anni fa a lavorarci. Ci sono dei tratti già esistenti, come il tratto da Peschiera del Garda fino a Mantova. Da Mantova fino a Mirandola si fa attraverso delle strade poco trafficate e poi c'è il nostro Mirandola Bologna. Mirandola Bologna sono 46 chilometri fatti dal vecchio tracciato ferroviario, Mirandola Sala Bolognese, Osteria Nuova Sala Bolognese. Questi 46 chilometri sono stati pensati da alcuni amministratori di quei luoghi, in particolare da Claudio Broglia e Stefano Vaccari, due senatori, allora erano due senatori, che trovarono le risorse per creare un'idea di recupero del vecchio tracciato ferroviario, avuta anche da altri soggetti, tra cui Andrea Morisi. Sono tre nomi importanti perché sono tre soggetti che hanno permesso che questo accadesse. E parliamo di diversi anni fa. Il tracciato ferroviario è quello su cui appunto correva quell'unico binario famoso che collegava Bologna con Verona, che poi nel 2005 divenne un doppio binario fuori dalla sede e quindi la sede storica fu dismessa. Binari abbandonati che sono stati trasformati in questa ciclovia. 46 km di ciclovia. Si arriva da Mirandola fino a Osteria Nuova. Da Osteria Nuova ci sono i progetti che stanno per essere conclusi, già finanziati, che passano da Calderara e dall'aeroporto di Bologna. Si arriva lungo il Reno fino alla Vimiglia e dopodiché si arriva a Bologna. Intanto però ci si può lo stesso arrivare in Bologna facendo appunto un percorso secondario, come ricordavi, poco trafficato attraverso le frazioni di Stacerno e altri luoghi che è possibile recuperare attraverso il nostro sito e dove trovate tutte le informazioni. Che biodiversità, insomma, che ecosistemi si attraversano in questi 46 chilometri, perché quando li si fanno dal treno si butta sì o no uno sguardo distratto dal finestrino. Grazie alla bici, insomma, avremo modo di capire che cos'è questa pianura nord. Fra l'altro, una cosa anche interessante, proprio in questi periodi, insomma, a maggio, ricorreranno i 9 anni di un devastante terremoto che toccarono in maniera molto forte proprio quest'area. Stiamo parlando di un cratere sismico, di fatto, di quello che è stato un forte cratere sismico, quindi anche simbolicamente è un attraversamento molto importante. Sì, infatti, come dicevo prima, l'importanza primaria non è tanto l'infrastruttura quanto il fatto di avere un valore e un compito sociale, civico, ambientale, eccetera, che è rappresentato da un'idea aggiuntiva, chiamiamola così, di società determinata dalla lentezza, da un modo diverso di concepire il proprio tempo e il proprio spazio. La bici non è sostitutiva, ripeto, della velocità, non è quella, ma è aggiuntiva. complementare, è possibile vivere dei luoghi in maniera differente e le persone, molte persone hanno bisogno di questa differenza e molti luoghi possono offrire questa differenza. Se noi pensiamo solo ai luoghi veloci, come possono essere ad esempio le grandi città turistiche o i grandi bacini turistici come quello romagnolo della nostra regione, facciamo un pensiero corto. Abbiamo bisogno di completare questo pensiero anche con i luoghi, invece, chiamiamoli della lentezza possibile. L'Italia è strapiena di questi luoghi, la Toscana è forse il più famoso di tutti dei luoghi della lentezza, ma questi luoghi che hanno bisogno di essere attraversati lentamente. Noi abbiamo scritto non tanto che attraversiamo, come dicevi tu, dei luoghi geografici dal punto di vista naturalistico, caratterizzati da questioni e da elementi speciali. Abbiamo scritto che attraversiamo l'Emilia, il cuore dell'Emilia, e questo cuore lo attraversiamo appunto con uno strumento che ci permette di apprezzarlo in tutti i sensi, quindi non solo geografico, non solo naturalistico, anche storico, perché ci sono delle cose straordinarie, e anche di una storia recente come quella del terremoto, che è ancora visibile e lo sarà, perché il terremoto comunque lascia segni di ricostruzione che sono evidenti e che possono permettere appunto di mettersi in una connessione positiva rispetto al fatto che appunto sono territori che riacquistano una loro attrazione. Cosa sarà poi il resto dell'Eurovelo da Firenze in giù, se hai idea di quello che poi sarà il futuro collegamento completo? Noi stiamo lavorando al proseguimento, quindi stiamo progettando la parte sud da Bologna a Marzabotto. Stiamo iniziando i lavori da Marzabotto a Riola e quindi nel giro di 3-4 anni si arriverà a Firenze, perché i nostri colleghi fiorentini e toscani stanno facendo la stessa cosa da Pistoia, Prato, Firenze. Quindi noi abbiamo l'obiettivo di avere completato l'intero percorso dal Brennero fino a Firenze entro 3 anni, entro massimo, diciamo 4 anni, ecco, questo è proprio il tempo massimo. E più giù si sa qualcosa? Per il momento ancora no. Speriamo che il Ministero stia apprezzando, ha collaborato con noi, sta apprezzando questo sforzo locale, speriamo che il Ministero desideri che appunto ci sia un proseguimento verso Roma, e comunque sarà il proseguimento naturale che penso che inizierà a starci. Basta vedere quello che sta accadendo in questi giorni di grandissima attesa, ma direi anche settimane, perché in realtà seppure la ciclovia è chiusa perché ancora un cantiere aprirà solo martedì, è piena di persone che sentono il bisogno e che l'apprezzano camminandoci e anche andandoci in bicicletta.